gliel'ho detto mai. Io non ci ho creduto mai. Certo che alla nostra età, ma non c'è niente da nascondere. Io non ci pensavo più, vita di abitudini. Giorni senza novità, e abbiamo un posto per nasconderci. Senza ali e senza vento, scivoliamo via. Senza notti e senza tempo, scivoliamo via. Senza me siamo insieme ormai, il cielo è senza nuvole, senza fare scalo mai, cerchiamo un posto per nasconderci. È strano amarsi qui, di un amore senza età. In un cuore fragile, ma non c'è niente da nascondere. Senza ali e senza vento, uscire.